Dunque, allora ricordo qualcosa anch'io. Dunque, si facevano le feste, concerto di musica generalmente. Quello era i balli e basta, nient'altro, no. Non è come adesso che fanno feste più grandi. Feste semplici, ma le facevano spesso. Io però non ci sono mai andata. Veniva anche dalle città, si diceva. Eh sì. Castelvetrino attirava, allora non è che ci siano state feste come adesso che ci fanno in tanti posti, no? Allora era una cosa un po' privata, diremo. Intendo cose piccole, non grandiose, cose semplici, feste semplici. Come da noi qui si è sempre fatto il vaso della fortuna il giorno della sagra, ecco, sempre. Quello, fin dagli anni che ricordo io, insomma, è sempre stato fatto. Sì, il vaso della fortuna, sì. Si raccoglieva delle cose che offrivano i paesani. E ci si mette il numero e poi il giorno della sagra, il giorno dell'Immacolata del settembre, veniva venduto il biglietto e si riceveva secondo il numero, no? Questo è sempre stato fatto in paese per tanto tempo. Mi piaceva, ma ho sposato uno che invece non mi piaceva, non era buono di parlare. Mi tocca parlare con gli altri. E parlare con gli altri. Col permesso del dedo. Sempre a sto bar, al bar, e anche a Crisciotto, da mia nonna. La mia nonna veniva con la voce armonica, col violino, ne era tanti che veniva, che sono con la voce armonica. Sì. Sì. E dopo prima che Gino, che era il Cornelio. Gino, Cornelio. Cornelio Azzellini. Kofler. No, chi veniva, il generale chi veniva. Doro Moro col contrabbasso. Tum tum tum tum tum. Giovanni Mazzarella col mandolino, quale radio. E qui ti trovi su quei bar e in neva. I divertimenti erano con la vacca, la capra, andare in castello, ecco. Sono tutte belle, ma è serino. E poi a casa, andare a scuola, aiutare a fare i misteri in casa. E tutti i nostri divertimenti. Quando che Gavù è fidanzato, ma sì, allora qualche volta ne veniva da carnevale, ecco, mi porteva alle commedie, mi firma anche le commedie, da fate a Paranova, le commedie, mia sorella, a fare vedere le commedie, e dopo si balliva e suoniva e si fiva quattro salti, ecco, dopo che avevo i fiori, non so più nada, no, perché. Mi ricordo ancora Calabrina, veniva nelle occasioni che aveva bisogno. Lenzo Pomper, manca quello un po' di me, che mi ricordo mica era Gino Petenella, il Cerillo, il Battisti, il Cecazzoli, il Rino, faceva le comiche, le farce, Ale era un fenomeno, per dire. E Bruno Piva, Andro Onza, non ha staccato il nome, mica le tutte, nomi, le nomi d'arte, sti qua. E chi è che è? L'Ettore. Per curiosità, Balena, Ettore Balena. Dario Santerò. Dopo chi è che era che faceva belle commedie, faceva belle commedie per quello. E dopo si faceva quattro salti. Niente, che è il bar, delle scalette. Ma anche teatro, aveva il locale dentro, che veniva dentro, vestiva tanta zinga, stiva. Cioè che era il palco dentro a fondo. Era il palco. No, non avevo mai sarmi alle commedie, non ero un tipo, però mi aveva piaciuto farle, Gianna. Mi ricordo che ero su una Chapada di Putelli, la feve mescanuccia, venivano in tutti quei campi, dei campi di Vardà, e lei va scritta a me perché aveva visto una volta una commedia che era uno che era tisico e voleva avere l'amorosa, e l'amorosa non lo voleva perché... E lei va scritto, non mi ricordo più come la erano, ma so che la piaceva questa commedia che feve su Traputelote, sa? Sì, mi ricordo che cantava in quella sono tornate a fiorire le rose. Sì, ma le rose non, so, non me la ricordo più perché erano più telotte, sì. Ma so che sì, feve, su scanuccia, su di che. Comunque, tu chi le? Recitare, no, mi piace recitare, sa, mi piace, perché mi veniva anche se essa recitare per modo una roba da piangere, era buona anche da piangere quando era più giovane adesso, sì. Ma voglio piacere, mi bisogna stare la mia arte, mi devo recitare. E invece, ho sapato. Ricordarci invece quando ti trevaso Mars, tratto Mars, lì Nino è che mi ricordo, mio papà mi conteva sempre, no. Insomma. Come tratto Mars? Che neva lì su cola grande, si che va solta. Ah, sì, sì, sì, te pare. Te l'ha detto o non me l'ha detto? Ah sì, quello mi riadagi, sì. Adesso che te mendivi, me viene in mente qualcosa. Oddio, non era una di quelli che neva tanto intorno. Dopo sono andata alla Michelina, festa sì, una festa no, mi tocca lavorare, perciò non veniva a fregare le canne ruggine dei bombardamenti. Guarda, veniva a grattare perché le mie lustre. Ma era una festa di primavera, di marzo. Non so se era prendi di primavera, e comunque tratto marzo, faceva con l'usanza di me, non me la ricordo quella. Ma questi anni si divertiva ben poco, lavare la televisione non veniva. Faceva fuori le putele. Neva a scorzare il zaldo e che diceva sti anni chi si raduneva a tirar via le foglie del zaldo, sì, delle piante del mais, ecco. Quelle si raduneva a gruppi la sera. Bene. Stala, che era caldo. Stala. A far filò però. Fare il filò stala, sì, perché era più caldo. Beh, mi ricordo un'ancola, sono nata solo da mesi, vive l'era chi, la sora vive. Era diventata stasera, la dice scorsare, diceva scorsare. Signora, io che vengo, se vado vengo. E allora che era mia mamma, che era mesi, e che era sto, ma forse l'altro l'è nato il mio scorso papà, non mi ricordo perché non era mio marito, non era del letto. Era a lavorare e sto putelotte che era molto di foglie, sa, di saldo. E mio zio la ciapà e l'altra dritto in mezzo alle foglie. Non gli ha più potuto svedere. Sighi l'ha spaventata in una maniera e da quarto. E da dentro proprio che tutte le foglie addosso. Ho sempre in me quel coso. Guarda, se viva anche qualche risata, dopo se viva anche qualche cantata, se viva. Qualche spettacolese. Dopo si feva filò che diceva sti anni, si stava lì a ciacere, tutti conteva la sua, ecco, ma non era divertimento, a Barcellette si conteva, sì, qui che risaliva.